Il punto di Stefano Folli. Ora sarebbe necessario davvero un atto di responsabilità. Dopo che Bersani sarà salito al Quirinale, se dovesse rinunciare all'incarico, come tutti ritengono plausibile, sarebbe indispensabile che centrosinistra, centrodestra e anche 5 Stelle non frapponessero altri ostacoli al lavoro del Presidente della Repubblica. Se deve essere una figura istituzionale a realizzare un esecutivo sganciato dai partiti ma rispettoso del Parlamento, sarebbe utile che la missione fosse portata avanti in pochissimi giorni, perché l'Italia non può restare senza governo, come abbiamo visto nello scandalo dei Marò, perché è passato più di un mese dalle elezioni e anche perché queste sono le ultime settimane in cui Napolitano esercita i pieni poteri previsti dalla Costituzione. Poi, intorno al 20 aprile, il Parlamento comincerà a votare sul suo successore e sarà un'altra storia. Chi oggi pone ostacoli rischia di complicare una situazione già molto complessa.